Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro e ben ritrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica, un settore che in queste ore è al centro dell'attenzione per lo sciopero proclamato dai sindacati confederali nell'ambito dell'avvertenza sul rinnovo del contratto di lavoro. Tre le giornate di protesta, venerdì lo stop è interessato al trasporto di carburante, di medicinali, di prodotti alimentari di prima necessità e di animali, oggi e domani invece il fermo riguarda tutte le altre attività di trasporto e distribuzione delle merci, il settore della logistica e della spedizione. Per richiamare l'attenzione sui problemi che investono il settore dei trasporti e della logistica, presidi sono stati organizzati lungo tutta la penisola, nei porti, negli interporti, davanti alle prefetture, negli stabilimenti, ai mercati ortofrutticoli e centri di smistamento delle merci. A Roma manifestazione davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia e, come ripeto, domani si replica per la terza giornata di protesta. Sull'adesione allo sciopero e guerra di comunicati, secondo la FILT CGL, venerdì è stata superiore all'80%. Per Conftrasporto invece l'agitazione non ha avuto alcun impatto sulla distribuzione delle merci e si definiscono quasi impercettibili le conseguenze della protesta. Da segnalare anche la posizione di Fedit, l'associazione dei Corrieri Espresso, che ha ribadito la propria disponibilità a rivedere alcuni istituti contrattuali, accogliendo così una parte delle richieste dei sindacati. Fedit ha sollecitato la riapertura della trattativa per giungere in tempi rapidi alla sottoscrizione del contratto. E a proposito di scioperi e blocchi dei TIR, è stata revocata l'agitazione programmata per giovedì e venerdì prossimo al porto di Genova da alcune associazioni del mondo dell'autotrasporto contro i tempi di attesa troppo lunghi per le operazioni di carico e scarico all'interno dei terminal. Una condizione definita insostenibile che incide in maniera pesante sull'operatività e costi delle imprese. La decisione di sospendere la protesta è giunta dopo un incontro con i vertici dell'autorità portuali e rappresentanti dei terminalisti. È stato deciso di istituire un tavolo di confronto permanente al quale tutti gli operatori coinvolti possano studiare e trovare soluzioni adeguate per superare le criticità che ora insistono sul porto di Genova. Tra le questioni che si trascinano ormai da anni e che riguardano lo scalo ligure c'è quella dell'autoporto, cioè di una struttura nella quale possano sostare i mezzi pesanti diretti alle banchine. Pensiamo per esempio a quello che succede in caso di blocchi, magari determinati dalla chiusura delle autostrade o anche in seguito all'improvvisa sospensione delle attività portuali per le avverse condizioni meteo. Su questo punto e quindi sulle prospettive di individuare soluzioni abbiamo sentito il presidente dell'autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini. Abbiamo vari interventi, l'autorità portuale ne ha uno che sta gestendo in questi mesi, altri gruppi privati ne hanno altri in piena efficienza. Intendiamo risolvere, e questa forse è la cosa più importante, a tempi molto brevi la questione delle aree di Cornigliano, già in affidamento a un soggetto privato. In più ci sono quelle che l'autorità portuale dovrà ereditare la società per Cornigliano e saranno adibite essenzialmente a questo scopo. Quindi si risolverà in qualche modo questa criticità. Il sindaco è anche molto determinato, quindi spazi all'autorità portuale, più spazi del comune, penso che la risolviamo. L'Italia è il grande molo d'Europa, bisogna sostenere questa vocazione e presentarci come sistema unico per far lavorare meglio i porti, intercettare i traffici in aumento dal Mediterraneo e da Suez. Così ha parlato il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio agli stati generali della logistica del nord-est riuniti nei giorni scorsi a Venezia. Del Rio ha sottolineato una nuova stagione di grandi opere ferroviarie, 3 miliardi e mezzo di euro di bandi nel 2016, 7 miliardi e mezzo per il 2017. 17 più 5 miliardi per i lotti costruttivi dell'alta velocità. Sulle prospettive di sviluppo dei porti dell'area adriatica, nel segno anche di un sistema di trasporti intermodali, abbiamo intervistato il presidente dell'autorità di sistema portuale di Trieste, Zeno D'Agostino. Visti anche i dati del primo semestre, in cui vediamo che per la prima volta tutti i porti del nord adriatico, da Fiume fino a Ravenna, hanno un segno più, parlo del settore container, probabilmente il messaggio del corridoio adriatico, del corridoio sud come porta d'accesso all'Europa sta finalmente, diciamo, avendo e dando dei risultati importanti. Testimonial della cura del ferro a Trieste. Diciamo un po' di sì, nel senso che siamo passati da 4.800 treni nel 2014, chiuderemo a 9.000 quest'anno. Ma la cosa interessante, probabilmente abbastanza unica in Italia, è che ormai i nostri treni, cioè siamo il primo porto ferroviario d'Italia, ma il 90% dei nostri treni è internazionale, cosa che insomma non si riesce a fare da altre parti, e secondo me è un grande problema questo. Bisognerebbe che in qualche modo si iniziasse a varcare i confini con i treni anche negli altri porti, non solo a Trieste. Rimaniamo in tema di rotte internazionali e di porti, e quindi di chance di sviluppo per l'intero comparto della logistica. Il centro studi SRM, l'osservatorio del gruppo Intesa San Paolo, ha presentato il 7° rapporto annuale sulle relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo. Un diluvio di dati e di analisi tra grandi opportunità e qualche rischio che derivano dagli scenari che si vanno configurando. È emerso che nel Mediterraneo transita complessivamente il 20% del traffico marittimo mondiale. Grazie al raddoppio, il canale di Suez sta registrando tassi di crescita a doppia cifra, con il Mediterraneo sempre più al centro delle rotte, tanto più con lo sviluppo della Via della Seta. Già oggi l'interscambio cinese fa registrare un aumento, pensate, dell'841% rispetto al 2001, e tornando su Suez, nei primi 7 mesi del 2017 lungo il canale sono transitate 13.000 navi con 668 milioni di tonnellate di merci. Insomma, l'Italia è in mezzo a questi grandi numeri, tutti con il segno più. Il nostro sistema è in grado di intercettare questi flussi in maniera strutturale? È la domanda che abbiamo posto a Massimo De Andreis, direttore generale di SRM. L'Italia potenzialmente è in grado, nel senso che il suo posizionamento geografico la rende al centro di queste dinamiche, in cui soprattutto la forte crescita della Cina e della rotta dall'Asia verso Suez per il Mediterraneo contribuisce ad accrescere la centralità del Mediterraneo. Naturalmente, per agganciare queste dinamiche bisogna, come paese, investire in modo più marcato sulla portualità e sulla logistica, anche semplicemente considerando il dato che l'80% di tutto il traffico di import ed export a livello globale parte e arriva via mare, e quindi per un paese come il nostro, che ha una forte vocazione all'export, oltre che un grande importatore, ovviamente la portualità e la logistica sono essenziali. E da questo punto di vista forse possiamo anche aggiungere che, diciamo, la riforma del Rio, che ha avviato anche un ricambio generazionale di chi si occupa di portualità in Italia, il fatto che sono state introdotte le zone economiche speciali, che costituiscono qualche cosa che attira investimenti potenziali per gli sgravi fiscali e semplificazione burocratica, sono due elementi che possono farci rispondere almeno in prospettiva positivamente a questa domanda. Come purtroppo ben sappiamo, l'emergenza terrorismo coinvolge direttamente i mezzi pesanti usati come strumento di morte. Pensiamo alle stragi di Nizza, Berlino, Stoccolma, Londra. Al di là dell'attività di intelligence, è difficile prevenire questi attacchi, ma certamente ogni possibilità va presa in considerazione, e in questa direzione l'Italia può dirsi all'avanguardia. UIRNET, la società del Ministero delle Infrastrutture incaricata della realizzazione della piattaforma logistica nazionale, ha messo a punto un progetto per il controllo dei varchi d'ingresso ai centri cittadini, che sarà operativo a breve in 2 città. Sentiamo quali e come funziona da Rodolfo De Dominicis, presidente e amministratore delegato di UIRNET. L'iniziativa si esplica nella realizzazione di un perimetro virtuale informatico sui centri delle grandi città metropolitane. In questa prima attuazione a Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e poi a Matera, capitale della cultura europea 2019, e questo perimetro ha dei gate attraverso cui debbono passare i mezzi che portano merci. Attraverso questi gate i merci saranno riconosciuti. Se non sono riconosciuti, scatta un allarme, per cui alla fine si possono evitare. Molte delle cose che sono successe, il fatto che uno prenda un camion e si butti addosso a inermi turisti o a inermi persone che stanno facendo spese, questa roba non può succedere, perché il camion al centro della città non ci può andare. Ora uno sguardo alle officine e alla questione dei veicoli sostitutivi. Da uno studio su un campione di 224 carrozzerie è emersa l'esigenza di poter mettere a disposizione soluzioni flessibili, di cui un'iniziativa presentata da Europe Car che permette formule di noleggio giornaliere e mensili. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, vi ricordo l'appuntamento del sabato su questi temi curato da Massimo De Donato, Container in onda alle 13.15. Da Andrea Ferro grazie per l'attenzione e buona giornata. Hashtag Autotrasporti.